no, ma mi hai sentito? Beh, non mi senti più. Attento, un amico, mi senti? Attento, l'amico su 10. Attento, Stefano. Attento, Stefano. Ciao. Care, avanti. Avanti, chi è che ha detto ciao? Chi è avanti? Lui. Hola. Avanti. Chi parla? Me. Ma chi sei, Antonio Bombolo? Sì, Antonio Bombolo sono. Ciao Antonio, Rita da questa parte. Oh, ciao Rita. E mi sto usando un apparecchio piccolo, sto usando in camera da letto. No, io sono in camper, sono qua, sono a Predanieta che sto aspettando degli amici e volevo provare a vedere se uscivamo. Esce, tranquillo, ti sento una bomba, ti sento. Andrà bene, quindi già funziona allora di nuovo. Ma è buco zocca questo apparecchio. E questo qua è un apparecchio piccolino, sto utilizzando, non sto utilizzando chissà cosa, ce l'ho in camera da letto, scappa. Comunque già mi senti perché c'ho l'antenna sul tetto. Ehi, benissimo, qua arrivi al rifornitore di Predanieta. Kappa, sì, no, non ci sono problemi già. Come segnale arrivo bene, perché praticamente non funzionava prima e adesso l'ha riattaccato Stefano e là, sembra che stia andando. Devo andare a controllare perché questo non è a segnale, questo che c'è in camera da letto. Devo andare a controllare in stazione. Sicuramente sia a fondo scala, sì. E l'importante è da schiacciare anche con l'amico nostro che c'ha il camper. Però mi sa che loro non lo senta lui. Se parla lo sento, non è un problema. Magari dico di provare a parlare. Sì, provare, dille. Problemi, io non ho ostacoli, problemi non ne ho. Ho l'antenna sul tetto, ho la stazione fissa. Quindi io problemi non ne ho, quindi dovrei sentire se l'antenna è buona, lo sento. Infatti chi è? Certo che ti sento, avanti. Buonasera, ti ho chiesto poco fa come mi sentivi. Abbastanza bene ti sento. Dove sei? Città? Sassari? Sassari, tu dove sei? Zona di San Giovanni. Ma ti sento benissimo, ti sento, non sento problemi. Cava. No, perché ho piazzato l'antenna adesso e me l'ha buttata il vento, volevo sapere un po' com'era. Io ti sento, ma cos'è, l'antenna di macchina cos'è? No, stazione fissa. Cappa, no, già ti sento. Ma sai quello che mi ha chiamato da Fusaro, no? No. L'ho acceso in questo momento, sarà 10 minuti fa il baracchino l'ho acceso. Ma Cappa, no, già ti sento bene. Ma sei nel CP Ricchi tu, sei da poco in CP? Io ci sono la bellezza di un bel po' di anni, ci sono la bellezza di un bel po' di anni. Anto, sono Rita di nuovo. Mi Rita. Non riesco a copiarti bene nell'altro baracchino del mio amico. Avrà problemi lui, mi pare strano. Ma tu a me mi senti quando parlavo? Certo che ti sento, non è un problema. C'è anche un altro amico, c'è dice da San Giovanni. Ehi, ma non lo copio io. Cosa? Chiedere se è Rita che sta chiamando. Sì, è Rita. Io l'ho sentita poco, bassa a bassa l'ho sentita. Sento che ti ha sentito bassa a bassa, Rita. Ma lui a me mi sente? Detto se la senti tu. Ma no, io già non è un problema, io già vi sento tutti e due, io non ho problemi. Tu guarda ora se mi senti lo stesso. Certo che ti sento. Aspetta che vado nell'altra stazione. Attento Paolo. Attento. sento? Io ti sento bassa bassa lì, dove sei? Riesci a vedere quanto mi state arrivando, va? Ehi, cacavaggio. Ma no, ma ti sto arrivando lo stesso, guarda così. Ah, ma mi arrivi sempre, non è un problema. Io, e tu mi senti, adesso sono con la trattazione. Eia, benissimo. Guarda adesso che cambio. No, ma io non ho problemi, io sento sia a te, sia l'amico di giù, io non ho nessun tipo di problema. Guarda ora tu. Ti sento uguale, sei Santiago 9. Ho capito, quando io nell'altro se io piatto ho capito sono più basso, capita. Rita, io ti sento a te, all'amico quello di San Giovanni, io non ho problemi, sono andato per due. Break. Fate il break. Ah, per favore. Giulio, ci sei, mi senti? Sì che ci sono. Qui okay, stiamo facendo un controllo da un campo di un amico, sono Stefano, tra il marito di Rita. K, sì, Santiago sì, Stefano. Santiago sì. Rita, lo senti a Stefano? Sì, ora lo sento. Ok, dai, va bene. Sono insieme, Stefano e Rita. Ma chi è che ha detto mi sentite? Che ne ho copiato uno un pochettino più basso. Ciao, io non ho problemi, io vi sento tutti, no, non c'è nessun problema qua. E anche tu arrivi a bomba. Per favore, dimmi che sono Battista, Rita, fa la cortesia che mi sento a me. Ha detto che Battista ha detto un rito. Santo, mi sentite? Sì, Laura. Cappa, io non ho problemi, io mi sento tutti, ma siete camperisti, siete. Laura, mi senti ora? Laura, ti sta chiamando Rita. Sì, Rita, ti sentiamo. Aspetta, Rita, mi senti? Rita, ti sta chiamando. Aspetta che tra un po' qua scaldiamo i motori, poi vogliamo vedere come arrivo lì, Adesso ci stiamo spostando, Antu. Aspetta, Rita, mi senti? Allora, vediamo un po'. Ok. Attenzione, canale 10K. Piano, ti sentiamo forte e chiaro. K, l'avevi saputo che babbo non c'è più da un anno? Vuoi entrare avanti? Ciao Antonio! Oh, ciao Giulio, buonasera! Capo mio, c'è entrata Rita, entrata! Con gli amici camperisti sta facendo un po' la ponte. Ah, ho capito, ciao Rita, se mi ascolti, ti ricorderai di me. Io mi sono mutuavi già da qualche anno fa. Avanti Rita, se mi hai ascoltato, capa. Buongiorno, ben sentito. Gio Maria, sono Stefano, il marito di Rita. Adesso ti passo a Rita, ok? Ciao Stefano, non potevate che essere insieme, marito e moglie, certo che sì. Sì, no, non sono Gio Maria, sono Giulio. Abbiamo più o meno la stessa voce con Gio Maria, questo è vero, tanti mi confondono con Gio Maria, però sono Giulio, non Gio Maria. Ciao Rita, avanti. Ciao Giulio, buonasera. E mi hai risentito dopo tanti anni. Veramente dopo anni. Caspita, io ero un'eternità che non ti sentivo più, né a te né a Stefano tra l'altro. Per cui io direi che siamo passati almeno 4 anni o 5 forse. Non saprei di preciso, ma più o meno all'incirca il tempo è quello. Ti rimando avanti Antonio, vai Antu. Capo, un pochettino di tempo è passato, ma non ce la mette più nella stazione fissa? Bene, santo. Nella stazione fissa ce la mette più? No, tutto staccato. Anche questo va in stand-by perché non stava funzionando e adesso l'abbiamo ripiazzato. Capo, ti ricordi a babbo? Sì, benissimo, eia. Già da un anno che è venuta a mancare. Sì, ho saputo tutto, santo. È un mese che manca anche mia moglie, che vabbè, purtroppo la vita è questa. andare avanti, lo sai benissimo, c'hai un bimbo, quindi la vita va avanti. Gappa. E tuo marito dove è arrivato? In che zona è arrivato? Ho copiato, Anto. Ah, dove sei? In che zona sei arrivato? Io già ti sento bene. Avanti Giulio. Ok, chi è l'altro amico, Anto? Io non l'ho copiato, l'altro amico non so che sia. Per cui, sì, vabbè, lo so, come hai detto tu e come ha detto Rita, la vita bisogna che vada sempre avanti, ci mancherebbe altro, purtroppo i casi della vita sono quelli. E non ci possiamo fare niente, non possiamo cambiare noi il sistema di vita, il sistema è quello e basta. Un momento ci siamo, un altro momento no. Pazienza, veramente, dispiace chiaramente, soprattutto le persone che si conoscono, le persone serie sono sempre indimenticabili. Pazienza, avanti vita. Ehi, a noi siamo in movimento e direzione Posa questa notte, e quindi adesso andiamo sicuramente a passare di segnale, da. Ok Stefano, sì, beh certo che sì, bel posto, Posa, bel posto veramente, sì. Non so se avevano aggiustato la strada che aveva danneggiato il temporale, non lo so, ma comunque suppongo di sì, è passato già un bel po' di tempo per cui avranno provveduto ad aggiustare la strada. In ogni caso non è un problema. Sì, va bene, Stefano, buon divertimento allora, verso Posa, per cui una località che a me è sempre piaciuta, la verità. Avanti a tu. E avanti, chi è? Giulia, buonasera, mi senti? Sì che ti sento, certo che ti sento, anche bene, ti sento anche bene, però non ti ho riconosciuto, sinceramente non ti ho riconosciuto. Siamo dei vecchi modulatori noi, partita dalla zona di San Giovanni, qua, stazione fissa. Battista dalla stazione San Giovanni, sì, ora mi viene in mente qualcosa del genere, sì, da San Giovanni, capita, anche da lì devo dire che senza sentirti o sentire persone da quella zona lì, io sono vicino a San Giovanni, già lo sai, non c'è bisogno che te lo dica, per cui sono anni, altrettanti anni, forse anche di più di quanto ero, che non ascoltavo più a Rita e a Stefano. Avanti ancora. Già ci siamo parlati da poco, solo che il vento mi ha fatto lo scherzo, mi ha buttato l'antenna e l'ho ripiazzato adesso. Già ci siamo parlati prima, adesso non vento, a fine anno, un po' prima di fine anno, con te, con Gian Maria, con gli altri, dai, i CB di Sassari. Questo mi fa piacere che di tanto in tanto se li affaccio qualcuno di vecchio stampo, nel senso di vecchia data CB, perché ormai la frequenza sta andando e diminuendo come il numero di persone. Va bene, sono contento comunque quando se li affaccia qualcuno, e anche e soprattutto quando dovesse entrare qualcuno nuovo, andrebbe ancora meglio, perché no? Avanti a tu. Ho preso la moto, ci sono uscito a Santa Maria Comina oggi, un bel po', più di 80 km. Ah, ti hai fatto una passeggiata in moto, e la giornata già era adatta, c'è un po' di venticello, però non c'era freddo, per cui in moto bastava un giubbotto che non fosse nemmeno molto pesante e si poteva viaggiare tranquillamente, tanto non c'è problema. Bene, bene, avanti Stefano oppure Rita, e a che altezza siete arrivati verso Posa? Ok, d'accordo Stefano, ci sentiamo allora, magari non so se riusciamo a sentirci ancora quando ti allontani ancora, questo non te lo saprei dire, già da adesso ho incominciato a sentirti bassino, Beh, del resto col camper l'antenna non è mai nelle condizioni migliori, in assoluto, sappiamo perché il camper si sa, è una macchina un po' difficile per la frequenza, nel senso che l'antenna non ha un buon contatto. Va bene, buon viaggio allora, grazie per esserti fatto sentire, sia a te che Rita, salutoni, io ti rimando Antonio per i saluti, avanti a tu. sei arrivato Santiago 5 qua. Comunque ti sento ancora, ti sento, non so se tu mi senti. Salutoni, ce la risentiamo. K. Brito, mi senti? Ok, intanto saluto anche l'amico Battista, mi sembra, di San Giovanni. Salutoni anche a te, dai. Anche tu ti stai allontanando, suppongo, e per cui fra non molto avremo difficoltà a collegarci. Va bene, ciao, grazie per la chiacchieratina e grazie per essere entrati a salutare per l'ennesima volta dopo tanto tempo. Comunque mi ha fatto molto ma molto piacere. Avanti, Antu. Forse l'amico di San Giovanni è stazione fissa, a quanto stava dicendo. Cappa, sei fisso. Allora non c'è problema, sei in ordine qua, sì. Ma stai usando un'antennina, un'antenna piccola? No, l'antenna sul tetto, dai, sul tetto non è molto alto però, eh. Vabbè, io qua sono più in basso di voi. Cappa. E che antenna è? Guarda, me la metto lo... Sirio, non mi ricordo il codice adesso. Quello che è una Grand Prix, lo sai? Una GPE, lo sai? La verità si può essere Saturno, può essere, non me la metto, ma non lo so. Perché l'ho piantata adesso, ce l'ha pure la scritta attaccata. Fortissimo qua. Ma si è abbassato parecchio. Adesso vabbè, sono liscio col corso, col CP. Oh, ecco. Forte tu mi senti? Sì, benissimo, forte e chiaro. Già va bene comunque. E noi già siamo sempre qua, siamo. Siamo sempre qua, quando vuoi entrare la sera soprattutto c'è il QSO, c'è, e quindi no, non è un problema. Ok, riprendo io, ma purtroppo vi devo lasciare, dai, vi devo lasciare perché dobbiamo decidere che cosa fare stasera qui in famiglia Antu. Io intanto ringrazio l'amico, è stato un piacere riascoltarti dopo tantissimo tempo, ma non fatti desiderare, la prossima volta ti voglio sentire di nuovo, ma al più presto, perché qua stiamo andando proprio male come numero di persone e frequenza. Grazie ancora per la chiacchieratina, dai, mi ha fatto il piacere di ascoltarti e tranquillamente ti saluto e ti auguro buona serata a te e a tutta la compagnia, dove sarai o dove andrai, non lo so. Avanti a tu, ciao a tu, salutoni, devo lasciare, ascolto finale e chiudo. Ciao, salutoni giù, ce la risentiamo. Avanti io. Ciao Giulio, buona serata, dai, già io ormai sono in pensione, come sei tu, ho mollato il camion e sono a casa, però non ho tanto tempo, dai, da dedicare al GB. Quando posso entro e vi saluto. Dai, buona serata e buone festività, piacere di averti sentito. Ricambiate il tutto al 100% e buona Pasqua, se non ci risentiamo magari domani o dopo, non lo so. Salutoni ancora, grazie ancora per la chiacchierata. Chiudo, ciao a tutti, ciao a tu. Noi ci sentiamo domani, ciao. Ciao Giulio, ciao. Ah, sei in pensione, non hai più gara di guidare. Dopo i 42 anni ho finito di guidare. Ancora devo guidare, adesso dobbiamo lasciare portare ai giovani. Ma se sono mandolare un cane, insomma. Non sono tutti così. Allora, dai, che una spatolata l'ho fatta. Ci sentiamo in seguito. Che dire? Buona serata e buone festività per domani. Adesso l'ho messo su e ci sentiamo. Santiago 7, chissà che cava. Dai, che chiudo, buona serata di nuovo. E buona festività se non ci sentiamo domani. Ok. che me lo puoi dare il rapporto di segnale? Vai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sei a fondo scala qua mi arrivi, già, ma già va bene, va. Ciao, ciao, chiudo, ciao, buona serata. Ciao, ciao.